Il nome della trasmissione, Eclettica, significa proprio che non c'è un genere di riferimento, un genere privilegiato all'interno di questa trasmissione, anche se magari proprio nella prima parte di quest'oggi si sarebbe potuto pensare diversamente, vista la prevalenza di sonorità hip hop. Tra l'altro, in uno dei brani proprio che facevano riferimento esplicito a questo genere, compariva alla voce come ospite Trent Reznor, che tipicamente hip hop proprio non è. Vi anticipo che però in questa seconda parte di Eclettica, in cui già ci siamo ascoltati un brano, sonorità hip hop non torneranno, ma ce ne saranno tante altre diverse fra di loro. Ve le elenco velocissimamente: Jennifer Ever, Junior Boys, Katamin, Noia Heband, Trio, Sister Vanilla. Ma ormai sapete che alla fine di ogni volume c'è l'indice. Thank you. Durante la mia esperienza di quasi morte, stamattina, ho scoperto che cosa succede alle persone che muoiono quando sono ancora piccole. È stata una scoperta accidentale, poiché mi ero introdotto nel tunnel celeste per intervistare la dottoressa Mary D. Ainsworth, morta a 85 anni il 21 marzo scorso a Charlottesville, Virginia. Era una psicologa dello sviluppo in pensione, ma attiva fino all'ultimo giorno. Il suo necrologio sul New York Times, generosamente elogiativo, diceva che la dottoressa Ainsworth aveva svolto più ricerche di chiunque altro sugli effetti a lunga scadenza del legame tra la madre e il bambino durante il primo anno di vita o, alternativamente, della sbadata mancanza di questo legame. Questo era l'incipit di Dio la benedica, dottor Kevorkian, di Kurt Vonnegut. Sai cos'è successo? No. Il cane del Sciur Giuseppe l'è entrato nel cortile di casa nostra. È corso dietro al gatto. L'ha preso, ci ha dato un morso e l'ha ammazzato. Cosa c'è da mangiare stasera? Coniglio. Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio? Fammi due uova, va. Da bambino ero il membro più giovane della mia famiglia e il figlio più piccolo è sempre quello che fa il buffone, perché solo grazie alle buffonate riesce a inserirsi nei discorsi dei grandi. Mia sorella aveva 5 anni più di me, mio fratello 9, e i miei genitori erano dotati entrambi di una bella parlantina. Perciò, quando ero molto piccolo e cenavamo insieme, a tutte queste persone io risultavo noioso. Non volevano sentirsi raccontare le sciocche novità infantili delle mie giornate. Volevano parlare delle cose veramente importanti che gli erano successe al liceo, o magari all'università, o al lavoro. E allora, l'unico modo che avevo per entrare nel discorso era dire qualcosa che li facesse ridere. Questo era l'incipit di Un uomo senza patria, di Kurt Vonnegut. Thanks. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 29, volume numero 1, indice. Soul Seppi, Coco Rosie, Tina Riwen, LP assieme a Trent Reznor, Holden, Jennifer Ever, Junior Boys, Ketamine, No Hey Benda Trio, Sister Vanilla. Il film, Il ragazzo di campagna. Gli incipit, Ghiaccio 9, Galapagos, Dio la benedica, dottor Kevorkian, Un uomo senza patria, Tutti e quattro di Kurt Vonnegut.